Ho ricevuto da Stefano Cucchi una lettera di cui vorrei farvi partecipi. Mi chiamo Stefano Cucchi e ho disagio a farmi riconoscere con il volto della morte. La mia colpa di consumatore di droga mi inchioda alla croce. Io sono un'immagine pagana, la carne di un rito sacrificale. Nel frastuono dei processi, io, Stefano Cucchi, sono l'ossicino da spolpare intorno al banchetto delle perizie. La disputa retorica di magistrati in cerca di una verità, quella che non posso più narrarvi, che non potete ascoltare. Vi lascio però un sentimento, una sensazione, uno stato dell'animo. Ve lo dono senza la pretesa che lo accettiate. Vi chiedo solo di non restituirmelo. Se lo avete già, passatelo oltre. Se non lo gradite, cestinatelo. Ma vi prego, non restituitemelo. Io vi lascio la vergogna e spero che non vi offendiate. Avrei voluto portarla con me in un altro luogo. Avevo ragioni per provarla e pensavo che la mia dignità di uomo potesse trovare uno spazio in un futuro da vivere. Sarei stato un giorno un padre, un compagno felice. Avrei raccontato i miei inciampi come succede a milioni di persone. Ma al varco m'è apparso un dio senza volto. E nella mia dolente inedia subivo l'affronto del corpo per mani vili. E non trovavo e non giungevano umane parole, né bende umide a detergere il sangue, né acqua sulle labbra asciutte. Quel dio era caldo e mi ha detto: andiamo via, lasciamo qui solo la vergogna, qui crescerà, lasciamola nelle mani di chi ti viola, lasciamola nelle mani di chi cercherà la verità, lasciamola nelle mani di chi giudicherà, di chi sarà indifferente. Lasciamola qua, la vergogna. Ho letto questa lettera mentre nella mia casa si svolgevano scene ordinarie e banali a raccontarsi. I miei figli erano intenti chi a suonare una chitarra, l'altro a scambiare opinioni al telefono sulle materie scolastiche. Per loro, per i miei figli, che presto incontreranno le miserie e le gioie di questa vita, vorrei trovare le parole. Ma non le trovo e mi ritrovo con quella stessa vergogna tra le mani. Vorrei sentirmi cittadino, artefice. Vorrei sentirmi stato, ma non posso. Vorrei essere padre e cercare di spiegare, di ascoltare. Portare l'esperienza ai figli perché la usino, a fianco alla loro. Ma non posso. L'incredulità si mescola con la rabbia e ogni valutazione di buon senso si scontra con la realtà. E mi sento inerme. Tamburello con le dita sul piano dello scrittoio e un terrore mi assale. Che io possa lasciare a loro quello che ho ricevuto. La stessa vergogna. Scusate il disturbo. Ciao, mi chiamo Stefano Cucchi. Sono morto il 22 ottobre di 6 anni fa. Mi hanno processato per direttissima e messo in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli. Spacciavo e mi drogavo, ma gli ematomi sul mio volto, il primo giorno d'udienza, poco avevano a che fare con questo. Un carabiniere ha scritto male i miei dati nel verbale, o meglio, non ha scritto i miei, ma quelli di un ragazzo albanese senza fissa dimora. Avrei potuto usufruire degli arresti domiciliari e persino, chissà, essere ancora vivo. Dopo l'udienza le mie condizioni di salute sono peggiorate. Mi hanno visitato all'ospedale Fate Bene Fratelli e messe a referto lesioni ed ecchimosi alle gambe e al viso, una frattura della mascella e dell'addome, un'emorragia alla vescica, due fratture alla colonna vertebrale. Avrebbero dovuto ricoverarmi. Non è successo. In carcere muoio dentro e violenza vuole che muoia anche il mio corpo. Chiudo per sempre gli occhi all'ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre del 2009. Peso solo 37 kg. Non posso non pensare alla disperazione della mia famiglia. Sapete, non sono riusciti a vedermi se non come un cadavere. Hanno avuto notizia di me soltanto quando l'ufficiale giudiziario gli ha notificato l'autorizzazione all'autopsia. Sul pezzo di carta che certificava il mio decesso c'era scritto presunta morte naturale. Ammazzato di botte i carabinieri. Tutta la notte ho preso botte. Perché? Per un pezzo di fumo. E t'hanno fatto questo? Sì. Sono detenuto nel centro clinico di Regina Celi. Medicina 2, stanza 6. Nella tarda notte, non mi ricordo il giorno esatto, nella stanza 6 arriva un ragazzo sulla barella. Vedevo che faticava a camminare. Mi sono alzato, mi sono messo immediatamente a sua disposizione. Prima l'ho fatto sedere sulla sedia, nel frattempo preparavo il suo letto, prendevo dalle sue mani le lenzuola. Mi ha chiesto una coperta. Sentiva freddo, molto freddo. Ho preso la mia coperta dal mio letto, poi ho iniziato a fare il suo. Mi chiedeva se ci fossero dei biscotti e allora ho preso un piatto di carta, ne ha mangiati due o tre. Poi mi ha chiesto una sigaretta. L'ho presa a un mio amico, lui ha fumato. E poi gli domando chi t'ha picchiato. Lo vedevo rosso, viola sul viso. Mentre fumava vedevo che non stava bene. Finita la sigaretta mi guarda, dice buonanotte, si addormenta. Durante la notte nella nostra cella si sentivano urla forti. Io mi sono rialzato, nel frattempo si alzava un altro mio amico. Ci siamo avvicinati. E lui disse, io sto male ma non chiamate nessuno. Io lo vedevo che era impaurito, molto. Aveva un tono di voce affaticato. Solo che poi riprende a dormire. La mattina si è alzato. Io mi sono avvicinato a lui. E io ho chiesto, ti serve qualcosa? Lui, poverino, mi risponde con stanchezza. L'ho portato di nuovo vicino al tavolo, si è seduto, ha fatto colazione. Un caffè, latte, biscotti. Dopo aver finito mi chiedeva una sigaretta e un caffè. Io rispondo, certo, amico. E lui si presenta col nome di Stefano. Io rispondo, molto piacere. E ritornando al suo letto, mettendosi sotto le coperte, io gli ridomando: chi t'ha picchiato? E lui stavolta mi risponde per due volte: i carabinieri. Io lo vedevo che stava di nuovo male, e allora abbiamo chiamato il dottore, quello della sezione. Il dottore è arrivato dicendo: portatelo nella infermeria. Io ho risposto: non può camminare. Il dottore è entrato nella nostra cella, l'ha visto, lo ha toccato, è uscito e subito ha chiamato il suo superiore medico, che è rientrato, lo tocca ai fianchi e Stefano fa un urlo: ai! Il dottore dice che deve andare immediatamente all'ospedale. Stefano ha sentito la parola ospedale e si è impaurito subito, ma il dottore insiste che deve andare urgentemente. Il medico esce dalla cella. Nel frattempo Stefano mi chiama: non ci voglio andare in ospedale. E io gli dicevo: per favore, devi andare come dice il dottore. Ma lui in risposta: no, no, no. Nel frattempo Stefano mi richiama e mi disse: dammi il numero di telefono dei tuoi familiari se hai bisogno di qualcosa. E io rispondo: ma pensa prima a curarti, no? Non preoccuparti di me. Poi, prima di andare via, gli ho dato una busta di biscotti, due mele. Quando l'hanno portato via, io e il mio amico ci siamo parlati in arabo, dicendo che non si può fare. Una cosa del genere non si può fare a un essere umano. Dio non vuole così. Pace, amico mio. Dopo la mia morte, il personale carcerario negò di aver esercitato violenza ed espresse diverse ipotesi sulla causa della morte, dicendo che io stesso potevo essere morto o per conseguenze a un supposto abuso di droga, o a causa di pregresse condizioni fisiche, o per il mio rifiuto al ricovero al Fate Bene Fratelli. Le indagini preliminari hanno sostenuto che a causare la morte sarebbero stati i traumi conseguenti alle percosse, il digiuno e la conseguente ipoglicemia. La mancata assistenza medica. I danni al fegato. L'emorragia alla vescica. Sapete come avrei potuto evitare l'ipoglicemia? Un cucchiaino di zucchero. Un maledetto cucchiaino di zucchero. Thank you. 7 novembre del 2009 una commissione parlamentare d'inchiesta conclude che sono morto per abbandono terapeutico. Il 30 aprile del 2010 la Procura di Roma contesta ai medici del Pertini, a seconda delle posizioni, il favoreggiamento, l'abbandono di incapace, l'abuso d'ufficio e il falso ideologico. Agli agenti della polizia penitenziaria vengono contestati invece lesioni e abuso di autorità. Il 13 dicembre del 2012 i periti incaricati dalla corte hanno stabilito che sono morto a causa delle mancate cure dei medici per grave carenza di cibo e di liquidi. Affermano inoltre che le lesioni riscontrate post mortem potrebbero essere causa di un pestaggio o di una caduta accidentale e che né vi sono elementi che facciano propendere per l'una piuttosto che per l'altra dinamica lesiva. Da questo punto in poi io comincio a essere un po' confuso. Chi mi ha ucciso? Di che cosa sono morto? PM Loi durante la requisitoria afferma che Stefano Cucchi, lungi dall'essere una persona sana e sportiva, come invece sostengono gli stessi periti della corte, era invece un tossicodipendente da 20 anni, cioè dall'età di 11 anni. Ora capisco da chi ha saputo l'onorevole Giovanardi che mio fratello era uno zombie siero positivo, perché evidentemente per lo Stato mio fratello era questo. Poco contano le decine di testimonianze che affermano che Stefano stava bene, che faceva tapirulan un'ora prima del suo arresto. Poco conta che nelle sue urine non vi sono tracce di droga. Lui era un morto che camminava ed era un cafone e arrogante perché era in crisi di astinenza, non perché massacrato di botte. Ed è morto perché drogato. È morto per colpa sua. E noi, suoi complici. Oggi comprendo perfettamente tutte le famiglie che in questo paese rinunciano ad avere un regolare processo. Uccidere la persona che ci sta di fronte. Sapere che dipende soltanto dalla nostra volontà se l'altro conserva o meno la propria vita. Questo sapere, questa consapevolezza è la droga più potente che l'umanità abbia mai inventato. Pinelli? Ebbe un malore attivo! Lo russo prese a testate un proiettile vagante! E Carlo Giuliani era un black block! Federico. Ma Federico Aldobrandi era l'incredibile Hulk! E ora veniamo allo straordinario caso di Stefano Cucchi, la cui sentenza d'appello sarà in lizza per il prossimo Nobel per la scoperta di incredibili effetti collaterali della droga e della denutrizione, ovvero le botte mortali autoprodotte dall'organismo. E se tanto mi dà tanto, in Cassazione emergerà che Stefano Cucchi non è mai esistito, che è stato un prodotto della nostra mente, un'allucinazione di massa, un effetto delle droghe pesanti che ovviamente chiunque di noi oggi assume. La scatola si è aperta. Spaventati abbiamo tirato fuori la testa per tentare di capire dove eravamo, cos'era necessario per recuperare una sicurezza tranquillizzante. Tutto era ostile: odori, percezioni, luci, suoni, il volto dell'uomo. Ora per cominciare te ne do uno. Di che cosa parlava? Di chi parlava, a chi si rivolgeva? Il nostro istinto ci spingeva a scappare, ma come uscire da questo contenitore? Come saltare fuori? O altrimenti come appiattirci tanto da poterci fingere morti e sapere di scappare al castigo? L'uomo ha agguantato il mio congenere tenendolo per le lunghe orecchie, e io l'ho visto dibattersi, l'ho visto dimenarsi disperatamente senza però riuscire a liberarsi. Mi sono acquattato in fondo alla mia insolita tana e sono rimasto sbigottito quando ho visto quello che ho visto, e ho capito quello che ho capito. Situata sul lato della gabbia, si è aperta e il roditore è stato scaraventato dentro. Nel calore confortevole del mio habitat, ha creduto di essere ormai al sicuro. Ha fatto un primo balzo, poi un secondo, era tutto bianco. E io mi sono incurvato nella sua direzione, lui mi ha visto, ha provato a fuggire, ma io gli avevo già azzannato la testa, affondando leggermente i denti nella carne del collo per immobilizzarlo. Ha cercato di indietreggiare, si è dibattuto nella mia bocca spalancata ed era una delizia sentire la saliva che lo umettava da cima a fondo, gli lubrificava il pelo e lo rendeva più liscio affinché niente venisse a turbare la mia ingestione. A poco mi si sono distese le ossa, i legamenti, i tendini e i muscoli della testa, mentre le mascelle si sono disarticolate per permettere alla bocca di aprirsi ulteriormente in modo tale che io potessi inghiottirlo intero e mantenerlo vivo il più a lungo possibile. E lo sentivo andare giù attraverso la gola, che lo aspirava con lentezza, con gusto, mentre il suo odore, il suo sapore, i suoi movimenti, il suo panico non facevano che aumentare la mia contentezza e il mio piacere. E una volta completata l'ingestione, ho atteso la sua asfissia. È un momento sublime. Mi piace tanto sentire l'animale che soffoca in fondo alla mia gola, percepire le sue contrazioni, indovinare i suoi movimenti inconsulti e cercare di cogliere l'attimo in cui la vita si spegnerà in lui. Udire attraverso la mia sordità il grande silenzio che tutto a un tratto si manifesta in me e mi invade. Tornata la calma, mi sono infilato sotto le rocce del mio terrario per sistemarmi all'ombra in un luogo protetto e cominciare la mia lunga digestione. Una persona che si trovi sotto la custodia dello Stato, dei suoi apparati, dei suoi uomini, deve essere considerato dallo Stato il valore più prezioso, un bene sacro, per una ragione insieme elementare e fondamentale, perché la legittimità giuridica e morale dello Stato di chiedere lealtà e obbedienza ai propri cittadini si basa sulla sua capacità di garantire l'integrità del corpo affidatogli in custodia, la sua incolumità fisica e le sue essenziali prerogative. We'll be right back. Stefano Cucchi è morto di dolore perché il suo cuore non ha più retto. Un dolore costante e crescente, dovuto a un pestaggio, avvenuto 6 giorni prima in una cella di sicurezza del tribunale, poco prima del suo ingresso in aula per la convalida dell'arresto. È morto di tortura e senza che nessuno abbia accertato la causa esatta del decesso. Le lesioni riportate da Stefano Cucchi alla schiena e negate dai medici con superficialità non erano di per sé mortali. Ma sostenere che lui non sia deceduto per quelle lesioni legate al pestaggio è pure ipocrisia. Senza quel pestaggio non sarebbe morto. Debole. Muore un piccolo consumatore di sostanze stupefacenti, come tanti. Occasionalmente dedito allo spaccio, come tanti. Comincia a morire prima ancora di essere incarcerato. Muore perché il giudice non lo guarda nemmeno in faccia. Perché nessuno chiama il suo avvocato. Perché non ha in tasca il numero di telefono di un ministro di grazia e giustizia. Perché i medici che lo hanno in cura si limitano ad ammonirlo. Guarda che così finisci male. Lo stesso atteggiamento che le persone semplici usano con i bambini, gli stranieri o gli handicappati. Muore perché vive a Roma e non a Oslo, o perché viene dalla parte sbagliata di Roma, o forse anche questa non è altro che sociologia d'accatto. E Cucchi è morto per delle responsabilità ben precise di persone ben precise, solo che la nostra magistratura non è riuscita ad appurare chi ha fatto cosa. Ciao, ero Stefano Cucchi e come me è finita un sacco di gente.